ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Ciao a tutte. Come prima notizia di oggi, ne diamo una che insomma in questi giorni ha fatto un po' il giro della rete, dei media, e sarebbe che il SEL ha presentato alla Camera una mozione che è stata approvata, ed è una mozione sulla 194, la legge sull'aborto. Riguarda in particolare il fatto che in Italia ci sono troppi obiettori, per cui è impossibile mettere in atto, far funzionare la legge. Negli ospedali la maggior parte dei ginecologi, delle ginecologhe, si dichiara obiettrice, obiettore, obiettrice, quindi su tutto il territorio nazionale è difficilissimo far eseguire insomma mettere in atto la 194. Allora, che cosa succede? Succede che il SEL presenta una mozione in cui appunto dice chiaramente che l'80% di obiettori è troppo, e una mozione che impegna il governo a trovare una soluzione. Poi vedremo che cosa propone la mozione in particolare, a trovare una soluzione e, con l'assenso della ministra della salute Lorenzin, che è chiaramente una ministra di destra. E questa mozione viene approvata con il voto del PDL, col voto del Movimento 5 Stelle, e il PD si astiene. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. E allora, leggiamo testualmente. Quello che è successo martedì 11 giugno sull'aborto a Montecitorio e dentro il PD ha dell'incredibile. Nel voto sulle 9 mozioni che riguardavano la legge 194, infatti, si è arrivati ad un paradosso. Su una mozione di SEL, probabilmente la più importante, con cui si chiedeva di limitare negli ospedali il numero di obiettori che si rifiutano di praticare l'aborto, impedendo di fatto l'attuazione della legge in molte realtà, Movimento 5 Stelle e PDL hanno votato a favore e il PD invece si è astenuto. Un voto incredibile perché ribalta tutte le geografie politiche immaginate fino ad oggi. Allora, la maggior parte degli articoli che circolano in rete dicono che questa notizia ha dell'incredibile, cioè il fatto che il centrodestra, il Movimento 5 Stelle abbiano approvato una mozione del genere e che il PD si sia astenuto. Detto così potrebbe sembrare vero, però in effetti tanto incredibile non è. Perché? Perché da tantissimo tempo ormai, da quando il PD è diventato destra moderna, da quando si è assunto il compito di naturalizzare le politiche neoliberiste nella società, nella nostra società, in effetti fa un tipo di politica, un tipo di scelte che sono appunto da destra moderna. E non è una posizione ideologica, non è che uno in particolare dice ah, il PD ha una posizione di destra. No, è una cosa che viene dall'analisi di quello che fa sul campo, cioè dalle leggi che non soltanto in ambito sanitario, ma dalle leggi che ha approvato dal mondo del lavoro, da quella Treu alla legge Biagi, al collegato al lavoro, a tutto. Leggi sulla, cioè a tutto il processo di cui è stato partecipe di destrutturazione della scuola pubblica e alle privatizzazioni cominciate con il governo Amato. Praticamente sono anni ormai che il PD si comporta da destra moderna e il fatto che adesso abbia preso questa posizione sull'aborto invece secondo me non ha assolutamente niente di incredibile. Io mi ricordo anni fa, non è neanche tanto tempo, che Finocchiaro, che appunto è del PD, in un'occasione in cui si parlava, una delle tante volte si parlava del feto, quando è vita, quando non è vita, quando comincerà la vita, lei ha detto ah, si potrebbero rivedere tutte le impostazioni del 194 in funzione delle nuove scoperte del livello scientifico dell'individuazione della vita, che praticamente si potrebbero rivedere alla luce delle modificazioni dell'avanzamento che ha fatto la scienza in questi anni, rivedere la posizione sull'aborto. Cioè, questa è una cosa aberrante, perché il problema dell'aborto non è mica un problema scientifico, non è mica un problema di quando la vita prima o quando comincia prima o quando la vita comincia dopo, è un problema di autonomia e autodeterminazione della donna. Quindi il problema della scoperta scientifica di quando cominci o meno la vita è assolutamente del tutto secondario. Sì, ma io ricordo che anche la Puppato non molto tempo fa fece un'uscita del genere contro appunto la 194, contro l'aborto. E forse era un paio d'anni fa, ma non di più, sì, forse anche più, meno, quindi insomma non è che... continuando a leggere, un altro paradosso è questo e riguarda i media. Tutti i giornali oggi hanno messo in ombra questo voto nel PD, ma hanno dato grande risalto alla frattura che si è verificata nello stesso dibattito tra le due anime di Scelta Civica, il partito di Monti. Il partito di Monti infatti si è spaccato in due, producendo due testi di orientamento opposto e addirittura contrapposto. Un discorso apatio, comunque insomma particolare, merita proprio indagare che cosa significhi obiezione di coscienza. Perché la mozione di Sell riguarda il numero dei, anzi precisamente andiamo proprio a leggerlo, mi pare che ci sia nelle pagine interne dell'articolo, aspettate un attimo che lo cerchiamo, eccolo. Sì, la mozione chiedeva di prevedere che la non obiezione fosse indispensabile per i nuovi assunti o i trasferiti in altri ospedali e che i medici di famiglia debbano comunicare ai rispettivi ordini l'eventuale intenzione di esercitare l'obiezione di coscienza. Oh, chiaramente rispetto alla situazione di adesso è una mozione che ha un senso, nel senso che almeno prende, cioè cerca di trovare una soluzione, però chiaramente è assolutamente di una retroguardia che fa paura. Perché prima di tutto appunto bisognerebbe indagare che cos'è l'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza è nata per il servizio militare, quando il servizio militare era obbligatorio, cioè quando la leva era obbligatoria e se non andavi a fare il servizio militare ti venivano a prendere a casa coi carabinieri. Allora a quel punto nessuno può obbligare nessuno a sparare e c'è stata una lotta di tanto tempo e serrata per fare in modo che chi non voleva fare il militare doveva essere libero di non farlo e quindi doveva poter esercitare il diritto all'obiezione di coscienza. Chiaramente qui apriamo una parentesi, per cui chi non voleva fare il soldato doveva fare invece di 18 mesi ben 3 anni di servizio civile, quindi c'era una penalizzazione di fondo, no? Mentre qui chi non fa gli aborti, quindi chi è obiettore di coscienza nella sanità pubblica, ricordiamoci sempre che stiamo parlando di sanità pubblica, non solo non viene non ha fermi di carriera, ma anzi la carriera viene incentivata, cioè sono proprio quelli che non sono obiettori di coscienza che non fanno la carriera, che poi li rifilano a fare soltanto aborti, non riescono a fare nient'altro e invece gli altri fanno carriera. Quindi già questo è aberrante e detto proprio in maniera brutale, al di là della mozione di Sell, basterebbe fare i famosi 3 anni di fermo a chi è obiettore di coscienza come facevano per il servizio civile, che vedresti sparire tutti gli obiettori di coscienza degli ospedali pubblici. Però senza stare a fare questi discorsi, il problema dell'obiezione di coscienza si pone quando a fare qualcosa è un obbligato, ma qui nessuno obbliga nessuno. Se sentite che ci sono dei problemi tecnici, canzoni che saltano eccetera eccetera, non lo so che cosa sta succedendo, ma secondo noi è il caldo, quindi non fateci caso. To die till it's over, and then shh, it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. Quindi è chiaro che l'obiezione di coscienza viene usata come strumento di controllo del corpo delle donne, perché viene concessa soltanto in questo caso, cioè in nessun altro caso lo Stato permette che una legge dello Stato venga disattesa, no? Ci sono anche delle altre situazioni in cui è stata chiesta l'obiezione di coscienza, tipo gli espianti trapianti, e non l'hanno data col fischio che l'hanno data, perché in quel caso invece vogliono fare gli espianti trapianti. Qui vogliono controllare il corpo della donna e quindi non hanno nessuna intenzione di far passare veramente un principio che è banalissimo, che è chi lavora nello Stato e cioè chi lavora nello Stato sa che lo Stato funziona in un certo modo, se non vuole applicare le leggi dello Stato può lavorare nel privato o lavorare da un'altra parte. Questo vale per qualsiasi tipo di settore e qualsiasi tipo di ambito, scuola compresa. Nessuno può permettersi di non osservare i programmi ministeriali e di non portare alla fine dell'anno i programmi ministeriali così come sono stati dettati, pena la non cioè non può far parte del corpo insegnante. Una nota a margine poi riguarda proprio la 194, che praticamente è una legge che ci tiene comunque, nonostante sia sempre una sempre meglio di niente, mettiamola così, però è una legge che ci tiene sempre sotto tutela e ci tiene sempre in libertà vigilata. Non è sicuramente quello che abbiamo, che volevamo con le lotte degli anni 70, anzi tutto il contrario, non è una vittoria delle lotte degli anni 70, bensì è, rispetto alle lotte degli anni 70 che rivendicavano, in cui le donne hanno rivendicato autonomia, autodeterminazione, presa di coscienza, controllo del proprio corpo, lo Stato ha dato uno strumento per riportarci sotto il suo controllo, e infatti la 194 funziona in un modo particolare. Noi ce lo dobbiamo sempre ricordare questo. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Un po' di tempo fa è stata pubblicata una notizia che riguarda un'immigrata di 31 anni, così racconta l'articolo, residente a Milano, che nel maggio 2007, all'ottava settimana, ha abortito assumendo un farmaco prescritto per la cura dell'ulcera, che ha come effetto collaterale l'interruzione della gravidanza. Quando la donna, ricoverata in ospedale per emorragia, ha detto di aver assunto il farmaco per abortire, è stata denunciata all'autorità giudiziaria. In primo grado è stata condannata a 40 giorni di carcere, pena sospesa dalla condizionale. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza. La Cassazione ora ha ritenuto la condanna troppo severa e ha inflitto alla donna una multa, ribadendone comunque la colpevolezza. Con la sentenza 44.107, perché l'interruzione di gravidanza, secondo la legge 194 del 1978, è autorizzata, testuale, solo previo intervento della struttura sociosanitaria nel tracciare il percorso, dapprima psicologico e poi medico, che la donna che intende abortire è tenuta a stabilire. Caso, quindi, l'unica lotta che come femministe possiamo portare avanti è quella dell'aborto libero e della depenalizzazione totale dell'aborto. L'aborto deve essere libero e dipende solo dalla volontà della donna. To ride the bus while everyone is yawning and the day is young in morning Morgantown. Stop and go lights flashing. We'll wink at total strangers passing in morning Morgantown. Smile to win you with our all the morning still to live in morning Morgantown. Morning Morgantown, buy your dreams a dollar down. Morning any town you name, morning's just the same. La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte. Il tifo. Fare il tifo significa parteggiare apertamente e decisamente per qualcuno, per qualcuna o per qualcosa e sperare che questo vinca. Il tifo è una parola che evoca immediatamente partite di calcio ultra. Per molto troppo tempo tanta cosiddetta sinistra non si è sprecata a spendere una parola sugli ultra, sulla repressione che li ha usati come cavie, come banco di prova per il controllo, relegando un fenomeno sociale a un problema di ordine pubblico e di business economico e permettendo una sperimentazione repressiva a tutto campo che ora ci è piombata addosso in ogni ambito della nostra vita. Insieme alla repressione è passato un concetto molto grave, propagandato attraverso il politicamente corretto, attraverso il paradigma della non violenza, della convivenza civile. È passato, dicevamo, il concetto che schierarsi, prendere una posizione netta, rivendicarla, sia un atteggiamento violento e non corretto, che non sia un atteggiamento tollerante, comprensivo dell'altro, non sia, in una parola, democratici e democratiche. Viene così annacquata ogni lettura che tenti di dire la verità sulle cose che accadono e di scegliere da che parte stare. Viene annullata la differenza tra chi la violenza la subisce e chi l'esercita, fra la borghesia e gli oppressi e le oppresse, e la natura conflittuale delle conquiste sociali e delle lotte di classe e di liberazione. Ci sono le guerre neocoloniali? Si manifesta per la pace quando si manifesta, omettendo che c'è un aggredito e un aggressore, annullando i contenuti della lotta di liberazione e di indipendenza. Si rifiuta il TAV? Il dibattito si sposta su violenza e non violenza, tra istanze democraticamente poste in contrapposizione agli atteggiamenti esagerati di alcuni, come se l'aggressione non fosse quella di chi il territorio lo vuole distruggere. Gli operai vogliono fare i picchetti a Pomigliano e vengono picchiati dalla polizia? Si dibatte su un ventaglio di soluzioni economiche possibili. Esclusi pochi e poche che si espongono, nessuno che dica chiaramente da che parte sta. Che Guevara a suo tempo aveva dichiarato che non bastava più fare il tifo per le lotte, occorreva impegnarsi direttamente. Questa affermazione ci fa capire quanta acqua sia passata sotto i ponti, quanto la melassa riformista ci abbia invischiati e invischiate in un dibattito che appartiene solo ai vincenti e a chi il potere ce l'ha già. Mai come in questo momento è indispensabile schierarsi, dichiarare esplicitamente da che parte della barricata stiamo e fare il tifo apertamente per chi lotta e si espone. Ciao. The lights are on, but you're not home. You're mine. It's not your home. You're by. We'll be right back. Allora ricordiamo che siamo sempre qui su Radio Onda Rossa 87.9. Questa è la trasmissione I Nomi delle Cose a cura della Coordinamenta Femminista e Lesbica. E vi ricordiamo i nostri indirizzi: indirizzo email è coordinamenta con due o @autistiche.org, mentre invece il nostro blog è coordinamenta.noblogs.org. You already know this is me that you're talking to, and anything I say I have said before, when will it be enough? Then something in my mind shifts, and my eyes slip on my ears, and now I find that I'm face to face with none other than me. I have got the mirror. Siamo di nuovo qui, questo è l'approfondimento e la seconda parte che abbiamo dedicato al nuovo libro di Gigliola Izzo, che è qui con noi. La salutiamo, ciao Gigliola, ciao. Benvenuta. E, ci fa molto piacere presentare il nuovo libro di Gigliola, perché a parte il fatto che noi la conosciamo bene perché abbiamo letto i suoi libri precedenti, anzi l'abbiamo una parte l'abbiamo inserita all'interno dell'incontro sulla memoria femminista, collettiva memoria femminista, perché quello che ha scritto in uno dei suoi libri fa parte della memoria degli anni 70, e quindi era un pezzo che ci ha fatto molto piacere inserire. Però prima di parlare del nuovo libro, dato che abbiamo qui Gigliola, vorremmo un po' che Gigliola ci parlasse di sé e ci dicesse come mai scrive sulle donne, che cosa le ispira e che cosa pensa. Ciao a tutte e a tutti. Vabbè, io sono Gigliola, mi fa piacere, diciamo, essere qui e parlare di questa cosa della scrittura, che è una, diciamo, una passione che è scoppiata un po' in tarda età, anche se oramai sono 7-8 anni che scrivo. Io sono stata sempre una grandissima lettrice e vabbè, quindi ovviamente come tutti quelli che leggono molto, ho letto anche tanti libri pessimi e in tante occasioni ho pensato che sarei stata capace di scrivere qualcosa di meglio. Però mi sembrava sempre di non avere, diciamo, delle storie interessanti da raccontare. E poi invece a un certo punto è come se mi fossi resa conto che, diciamo, intorno a me tante delle cose che sentivo dire, che sentivo raccontare, potevano essere, diciamo, considerate delle storie, no? Nel senso, una cosa che avesse un principio, uno svolgimento e una fine. E quindi vabbè, ho scritto il mio primo libro, che come quasi sempre è stata una cosa autobiografica, che però voleva raccontare una parte, diciamo, della mia vita. È da Torino a Napoli. Sì, esatto, andata. Diciamo un breve tratto della mia vita. E poi invece ho cominciato a scrivere dei racconti, che è stato anche un po' strano, perché il racconto, diciamo, non è un genere letterario che io amo particolarmente, però invece mi sono resa conto che con una certa facilità riuscivo, diciamo, a condensare in poche pagine delle storie. E poi perché narro di donne? Narro di donne perché di fatto sono quello che conosco, cioè nel senso che insomma quello che riesco, diciamo, a capire, che riesco, mi sembra che insomma l'universo femminile, nel senso i sentimenti, le cose, siano quello che maggiormente riesco ad evocare quando diciamo scrivo. Quindi beh, una delle cose che per esempio a me personalmente mi ha colpito quando ho letto Ho così poche parole, che è il secondo, no? E che appunto sono, è una raccolta di piccoli racconti che riguardano donne. Ho magari letto un racconto e ho detto oddio, sì, è vero, cioè anzi odea, sì, è vero. è vero, cioè Gigliola riesce con pochissime righe certe volte a aprire uno spaccato, un sentire dalla parte delle donne, ecco, questo è secondo noi per quello che ci ha colpito molto e l'abbiamo anche messo nella, negli atti della memoria, perché il fatto di raccontare cose di donne non sempre significa cogliere quello che una donna sente, non sempre significa trasmettere una sensazione, riuscire a parlare, trasmettere delle sensazioni che in effetti le altre sentono, no? Sì, io diciamo al di fuori di qualsiasi complimento è una cosa vera, no? Sì, perché non è assolutamente facile. Diciamo che io, vabbè, di mio come persona sono una persona molto curiosa di quello che le persone, gli altri dicono, raccontano, pensano, e quindi per esempio alcuni di questi racconti nascono proprio dal fatto che magari mi è capitato di che delle persone ti dicessero, lo sai, in un attimo una cosa che ti fa capire qualcosa di loro che non ti aspetti, no? Per esempio, non so, mi ricordo questa cosa su quel racconto sui pendolari, per esempio. Io ho conosciuto questa signora che insegna italiano, no? E tu ti fai un'idea di un insegnante di italiano come di una persona che fa una vita tranquilla, serena. Poi parlando improvvisamente scopri che lei si deve alzare alle 3 del mattino perché insegna lontano, cioè fa una vita tutta diversa da quella che tu ci avevi in mente, no? E quindi ti rendi conto che magari devi guardare con più attenzione, no? Appunto a come vive la gente, e quindi un po'. e comunque parliamo un attimo di quest'ultimo lavoro che si intitola Apicirella, perdonami la pronuncia che non sarà molta, Apicirella, e che è una storia di violenza maschile in effetti. Cioè una storia di una donna, però una storia di violenza maschile. Sì, raccontacelo un attimo tu. Vabbè, questa storia diciamo è un po' vera, un po' no, come tutte le mi ha fatto piacere cioè diciamo l'ho ambientata in questo luogo vicinissimo a Napoli che si chiama Licolamare, perché diciamo è una realtà che conosco abbastanza bene e mi diciamo non voleva diciamo essere un intendere una vita difficile e violenta solo perché uno nasce in una situazione, no? Cioè, quindi non solo il contesto. Diciamo l'ho scelto per certi versi anche un po' per un fatto letterario, perché mi faceva piacere poter scrivere in questo modo in cui ho scritto, diciamo, cioè quindi in una maniera un po' popolare, un po' così. Beh, no? Che è uno dei tratti che sono caratteristici. Sì, capito? Della tua quindi scrittura. Questo diciamo anche mi interessava. E quindi pur nella coscienza che questo problema della violenza di genere, insomma, è diffuso a tutti i livelli, comunque questa storia parla di una situazione molto popolare, diciamo. Sì, no, ma infatti anch'io quando l'ho letto però ho pensato subito che in effetti la violenza sulle donne è trasversale e attraversa tutte le classi sociali. Chiaramente se si racconta la violenza in un certo tipo di contesto non necessariamente è riferita a quel contesto specifico e è un esempio, diventa esemplare, tant'è vero che la prima cosa che mi è venuta in mente è le diverse modalità che hanno per esempio le diverse classi sociali di esprimere violenza sulle donne, no? E in questo caso è un contesto popolare, ma mi può venire in mente un contesto borghese in cui invece di prendere le donne, di picchiare le donne selvaggiamente, magari le fanno intronare in casa di cura e poi si buttano dalla finestra. che la violenza non necessariamente è fisica così esplicita, ogni classe esprime la sua. Quindi va bene, io direi di cominciare a leggere qualche pezzo e così inquadriamo un attimo il racconto e inquadriamo la storia. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. There's a flag. L'incontro. A Piccirella annuncia da Icchiù a scuola che la stronza la maestra non la voglio avere più. Con queste parole il padre di Tina pose fine alla sua carriera scolastica e così a 7 anni smise di andare a scuola. Stava a casa con mamma e faceva i servizi. Dopo un paio d'anni Tina non si ricordava più come si scriveva e non riusciva quasi più a leggere. Sì, vabbè, questa cosa cioè mi interessava parlare di questa cosa della lettura e della scrittura, perché naturalmente per me è proprio inconcepibile pensare che una persona possa vivere senza saper leggere e scrivere, e so che anche se sembra impossibile è una cosa che c'è ancora. Proprio sì, pochissimi sì. Giorni fa sono andata alla posta e una ragazza che poteva avere 20 anni mi ha chiesto la cortesia di compilarle un modulo perché lei non sapeva scrivere. C'è un grande analfabetismo di ritorno e comunque penso che sia per le donne un grande... ci sia proprio un senso di inferiorità ancora più forte. Tant'è vero che uno degli altri pezzi che mi ha colpito nel libro è quando Tina incontra Gennarino, che poi sarà il protagonista insieme a lei di questa storia, e mi ha colpito il fatto che la sua felicità fosse dovuta finalmente al fatto che qualcuno la considerava qualcosa di importante. Questo è uno dei meccanismi più perversi del femminile, che ha bisogno, cioè siamo state impostate così, che siamo alla ricerca continua di una gratificazione e non ci sentiamo appagate se non troviamo l'amore romantico. Sì, se non troviamo amore romantico. Può sembrare assurdo, ma Tina era felice. Gennarino le aveva detto che era la sua femmina. Non servivano altre parole. È difficile capire quello che succedeva nella vita di Tina. Lei era pazza di Gennarino. Era come un'ossessione. Bastava una sua carezza e lei si sentiva di nuovo contenta. Anche se le sue parole gentili erano rarissime, le bastavano per essere felice di essere la sua donna. Non importava la violenza, non importava il dolore, non importava l'umiliazione di vederlo con le altre. L'unica cosa che importava erano quei momenti di piacere fisico che lui le dava e le parole d'amore. Non era più sola, non era più una ragazza come tante in un posto squallido e triste, ma era parte di qualcosa, di una coppia, di una storia, di un amore. Vabbè, questo, come diceva prima Elisabetta, cioè ha a che vedere col fatto che comunque siamo talmente intrise di questa idea dell'amore romantico che veramente sembra impossibile riuscire a essere qualcosa in autonomia, no? E quindi veramente, vabbè, poi questa storia insomma narra di una ragazza che giovanissima si mette con quest'uomo, insomma, quindi tutto veramente tutta la sua vita è dentro questa relazione, no? Cioè proprio lei non riesce neanche a pensarsi fuori da questa relazione. È anche abbastanza più comune di quanto uno non non creda, perché di fatto è la famosa ricerca della metà, che poi quando questa metà si perde, si innescano meccanismi da una parte di disperazione, dall'altra. E poi non importa se l'altra metà è pessima. Sì. Cioè questo è il problema, no? Cioè che non conta niente, in realtà conta soltanto il modo in cui uno si sente all'interno di questa cosa, no? Comunque nella sopraffazione maschile c'è un meccanismo che abbiamo indagato come coordinamento quando abbiamo fatto l'iniziativa appunto il 14 febbraio sull'amore romantico, l'amore romantico uccide, che è quello della gratificazione e quindi di riempire la donna di attenzioni e poi di sottrarre questa gratificazione e di metterla a far piombare nella difficoltà, nella solitudine, per cui c'è un asservimento man mano che è sempre più forte, c'è una dipendenza che è sempre più forte, è un meccanismo che nel maschile è molto collaudato a svariati livelli. Poi mi ha colpito moltissimo, dato che la storia continua e che la protagonista rimane incinta, quindi come succedono in questi casi succede un putiferio, e mi ha molto colpito quando si incontrano le due famiglie, perché è successo il guaio, come lo chiami tu, no? Un capitolo è chiamato il guaio. A casa di Gennarino ci stavano tutti quanti, o padre come settantenne o fatta. O padre come sentetto fatta ricetta mamma. Se figlia te una zoccola non ci posso fa niente. Ci avevo pensato prima. Mo è tardi. Gennarino è troppo guaglione per si sposà. Non te una fatica. Come fanno a campà? Però poi si girò e cominciò a riempire di mazzate Gennarino. Papà, mo fai male. Io mi voglio sposà. Io a Tina voglio bene. E a creatura vulim tenè. Tina si sentì come se le avessero levato un macigno d'addosso. Tutta la pesantezza delle ultime giornate sparì. Gennarino le voleva e l'avrebbe sposata. Tutto era di nuovo luminoso e leggero, di nuovo bello e solare. E infatti è proprio questo, no? Quello che stavamo dicendo prima, che è la gratificazione, che è una delle componenti più forti della dipendenza, che poi stavamo parlando prima con Gigliola, anche insomma in attesa della trasmissione, e stavamo proprio parlando di questo meccanismo, di quanto sia difficile uscire da situazioni di violenza. Sì, perché appunto dicevamo prima che si mette sempre troppo poco l'accento sul fatto che il problema è appunto la dipendenza e soprattutto l'amore che le donne hanno per questi uomini pessimi, no? Cioè anche riflettevamo su queste campagne pubblicitarie che fanno ogni tanto, ridicole, contro la violenza sulle donne, in cui mettono sempre l'accento, intanto fanno credere che ci sia basti un poco di buona volontà per uscire da queste situazioni, no? E soprattutto lasciando credere che basti far capire alla donna che questi uomini non le amano, no? Cioè che gli uomini che picchiano per esempio non amano le donne. Ma il problema non è se il tuo compagno ti ama, no? Cioè il problema è che se tu ami lui, cioè se tu ami lui devi riuscire a capire, a mollare questa persona nonostante quest'amore, e pur magari sapendo che, come dicevamo, come nel caso del libro, questa donna non ha niente, perché non ha proprio, diciamo, non è riuscita proprio a costruire niente in autonomia, no? Quindi praticamente tutto quello che ha e che pensa di essere è insieme a questo uomo, no? Quindi è difficilissimo lasciarsi, non è così semplice. E infatti le violenze, cioè la violenza domestica, noi sappiamo che perdura per anni e anni, cioè prima che una donna riesca a uscire da questo circolo vizioso, noi abbiamo fatto un opuscolino in questo senso come coordinamento, passa tantissimo tempo, cioè sono sempre cose molto lunghe. Prima dicevamo quel fatto che appunto che non si fa capire alle persone che comunque questo è un procedimento estremamente doloroso, sì, no? Cioè che lasciarsi con una persona violenta, cioè se tu sei innamorato di questa persona, ovviamente alla fine produrrà degli effetti positivi nella tua vita, questo è evidente, però devi passare una fase che è un processo pesantissima, è dolorosissima, sì, non è una cosa semplice. Infatti c'è un pezzo proprio nel libro in cui dice in cui cioè all'interno della famiglia che loro hanno costruito Gennarino le usa violenza, la picchia, e quindi lei cerca di non far capire questo all'esterno, è un problema che vuole nascondere. Lei cercava di non far capire niente a nessuno e così nascondeva i segni. Si metteva la cipria sui lividi e portava sempre le maglie a collo alto. Tina in fondo pensava che lui un po' di ragione la teneva. A Piccerella non lo faceva dormire e lui era sempre nervoso. Altro passo che è significativo della situazione appunto di violenza all'interno della coppia, nelle dinamiche maschile e femminile, è quando Tina per la prima volta gli dice di no, vero? Sì, perché questo scatena, dice di no, ovviamente, Gennarino, sì. Sì, scatena ovviamente una rabbia esagerata e soprattutto scardina una serie di meccanismi per cui insomma fino a quel momento si dava per scontato che lei dovesse sempre dire sì. No? Infatti nei percorsi di autodifesa, no, che le femministe cercano di costruire, autodifesa sia fisica che psicologica, c'è sempre questa ricerca della capacità da parte di assumere la capacità da parte delle donne di dire di no, è proprio uno dei momenti fondanti, perché ci sono anche un mucchio di luoghi comuni che il maschile si porta dentro, che quando una donna dice di no comunque vuole dire di sì, no? Sì. Tina era stanca, morta per la giornata di lavoro e la bambina e cucinare e preoccuparsi, e così per la prima volta dopo tanto tempo disse no. Gennarino, stanca, lasciami stare. Gennarino si girò come un pazzo, le tirò i capelli così forte che se ne venne una ciocca in mano. Darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. Allora, chiaramente non vi diciamo né come va a finire, né il proseguo della storia, né come va a finire, perché chiaramente un libro non si può raccontare fino in fondo, perché è sempre una sorpresa leggerlo. Vi diciamo soltanto che se volete il libro, questo e anche gli altri di Gigliola Izzo, potete scriverci all'indirizzo della coordinamenta@autistiche.org e chiedercelo, noi ce l'abbiamo, ci metteremo in contatto con voi e ve lo potete leggere. E intanto ringraziamo Gigliola di essere stata qui con noi, è stato un grande piacere. Grazie. Surely you touch my anchor, hardy you pours out of me in these lines from time to time. Quindi ricordiamo che siamo sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la trasmissione I nomi delle cose a cura della coordinamenta femminista e lesbica. E ricordiamo sempre i nostri indirizzi, quindi come diceva prima Elisabetta, il nostro indirizzo email che è coordinamenta@autistiche.org e invece il nostro blog che è coordinamenta.noblogs.org. Saluti a tutti. Ciao a tutte, ciao a tutti, alla ciao, prossima. Grazie. Ciao. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this is not really happening. Out the watchword.